poter dire, ma senza di volte, a un bel volto, che amoro per te, che amoro per te. E tu, dolce ad un'anima amante, poter dire, ma senza di volte, poter dire, ma senza di volte, ma senza di volte, a un bel volto. Senza timore, a un bel volto, moro, per te.